Sì, immagino che suo padre abbia perso il lavoro per colpa di un robot. Esatto, signore. Volete accomodarvi, signori? L'era dei robot di Simone Spezia. Quando guardo queste macchine io non posso non considerare che in un certo senso noi siamo collegati a loro. Ma noi le controlliamo queste macchine, non avviene il contrario? Beh, certo che no, come potrebbero? L'idea stessa è una pura assurdità, ma ti spinge tuttavia a chiederti che cos'è il controllo? È la facoltà di spegnere quelle macchine, volendo. Giusto. È così, hai fatto centro. Quello è avere il controllo. Se volessimo, potremmo farle in mille pezzi. Prima, però, converrebbe valutare cosa accadrebbe alle nostre luci, al calore, alla nostra aria. Una mattina vi svegliate sentendo che avete qualcosa che non va. Non sapete esattamente cosa, ma è come se sentiste di avere la febbre, un forte mal di stomaco, un senso di nausea. Potrebbe essere una semplice influenza, ma non ne siete certi. Telefonate al lavoro, mandate una mail dicendo che quel giorno proprio non ce la fate e per sicurezza andate in uno studio medico a farvi visitare. Quando arrivate ed entrate ci sono una decina di stanze. Ognuna di queste ha la porta chiusa e una luce sopra. Quando è rossa vuol dire che è occupata. La prima a destra è libera. Dentro non c'è un medico, ma uno strano macchinario con una sedia. Questa è l'era dei robot. Una buona giornata da Simone Spezia. E una buona giornata anche dalla macchina che prima o poi ne prenderà il posto. Vi ricordo, come sempre, che per suggerire un nome da darmi, potete scrivere a eradeirobot@radio24.it. Cosa succede quando entrate in quella stanza? Beh, facciamoci aiutare ancora dalla nostra amica. Beh, la macchina potrebbe dire qualcosa di questo genere? Prego, si accomodi signore. Quali sintomi accusa? La prego di appoggiare il braccio con la mano rivolta verso l'alto e di rilassarsi. Li elencate i sintomi mentre un ago guidato dalla macchina vi prende una stilla di sangue e la passa al microscopio. In un luogo che non vedete decide quale sia la diagnosi. Il medico umano, l'unico presente, non può che approvare, rifiutare di fare quello che sostiene la macchina, che ha un accesso ai dati della casistica di milioni di persone, che riesce a misurare il rapporto tra peso, altezza e parametri in un modo impensabile per un essere umano. Vorrebbe dire, anche se la si pensa diversamente, esporsi ad un rischio di sbagliare troppo grande, meglio affidarsi al computer. Oppure immaginate, magari lo siete, di essere un avvocato alle prese con un caso particolarmente difficile. Normalmente per fare le ricerche tra codice e codicilli e per tener conto di eventuali precedenti, ovviamente questo vale soprattutto per gli Stati Uniti, avreste affidato ad un praticante o a più di uno un complicato lavoro di ricerca, partendo magari, certo, da una vostra intuizione. Ora avete una macchina che può interrogare un database gigantesco, tutto in rete, magari interpellando altre macchine. Dei praticanti non c'è più bisogno e anche presumibilmente della vostra intuizione nel scegliere una linea di difesa, perché la macchina, seppur non esplicitamente, sa esattamente quale funziona meglio, sa calcolare quali percentuali di successo abbiano avuto delle specifiche linee di difesa in casi simili, e anche se vi sembra di scegliere, in realtà non lo state facendo. Lo stesso avviene in attività molto più semplici che svolgiamo quotidianamente, una semplice ricerca su Google, una ricerca tramite un robot, un computer che sfrutta un algoritmo, il quale non è altro che un set di istruzioni, per quanto complicato possa essere. Ebbene, l'algoritmo di Google a tutti gli effetti ci guida, ci propone i risultati che lui, l'algoritmo, ritiene migliori, ma il punto è che potrebbero essercene decine di migliaia, se non milioni di altri, dei quali non verremo mai a conoscenza. E soprattutto, non sappiamo il perché. Nicolas Carr è un giornalista americano piuttosto noto per dei libri critici sulla tecnologia. La sua è una delle tante opinioni che sentiremo nel corso di quest'estate. Il suo ultimo libro si intitola La gabbia di vetro, prigionieri dell'automazione, edito da Raffaello Cortina. Carr racconta inizialmente e come paradigma il cambiamento radicale avvenuto nel settore dell'aeronautica. I think in aviation we see both the good effects of automation and the bad effects. So nell'aeronautica civile vediamo sia i buoni sia i cattivi effetti dell'automazione. In tutta la storia dei sistemi di pilotaggio automatico degli ultimi 100 anni abbiamo visto la tecnologia rendere il volo più sicuro ed efficiente. una delle grandi cose che l'automazione può fare. Ma più di recente abbiamo visto l'effetto opposto. I piloti sono diventati così dipendenti dai computer per far volare gli aerei da perdere le loro capacità. Così quando avviene qualcosa di brutto, quando il pilota automatico non funziona bene o fa un errore, il pilota deve prendere il controllo. E dato che non sono più così attenti proprio perché sono dipendenti dall'automazione, e dato che le loro capacità sono diminuite, è più facile che commettano errori, fino anche a far schiantare l'aereo nelle circostanze peggiori. Quello che l'aeronautica civile dimostra è che l'automazione può essere un bene fino a un certo livello, ma quando degli esseri umani dotati di talento diventano eccessivamente dipendenti, troppo fiduciosi nel fatto che i computer faranno il lavoro per loro, perdono le loro capacità. Ed è una cosa che avviene comunemente con l'automazione, ma ovunque. Not only in aviation, but everywhere. C'è questo punto e c'è il punto dell'impatto sui posti di lavoro. Voglio chiarirvi, tra l'altro, non è che stiamo prendendo per oro colato quello che sostiene Nicholas Carr, però è un punto di vista interessante, un punto di attenzione da tenere presente. Si diceva l'impatto sui posti di lavoro. All'inizio degli anni 50 in cabina di pilotaggio c'erano tra le 6 e le 8 persone, un motorista, una persona che si occupava delle trasmissioni radio, tre piloti e così via. Oggi in cabina di pilotaggio ci sono solamente due persone, probabilmente ne basterebbe una, o forse addirittura nessuna. Sono quasi interamente, si affidano quasi interamente al computer. I think what's important is not to view automation as a replacement. Quello che è importante è di non vedere l'automazione come un rimpiazzo di chi ha dei talenti, ma di disegnare i sistemi in maniera che siano complementari alle nostre capacità. In altre parole, invece di premere il pulsante di accensione di qualcosa come un pilota automatico e non avere niente da fare, dobbiamo disegnare il sistema in modo che ci metta alla prova e che ci fornisca informazioni mentre dobbiamo prendere una decisione difficile. I computer possono fare un sacco di cose che noi non possiamo fare e ci possono aiutare a sistemare alcuni dei nostri errori. Ma se disegniamo i sistemi perché ci tengano impegnati in un lavoro difficile, allora penso che potremo avere un rapporto migliore con i computer, il che ci spingerebbe a migliorare le nostre capacità, a sentirci più soddisfatti e realizzati nel nostro lavoro. L'approccio sbagliato è quello di dire: sbarazziamoci degli esseri umani, usiamo i robot. That's the wrong approach. Ed è un approccio che in alcuni settori dell'economia e della vita quotidiana sta effettivamente avvenendo e può rappresentare un problema. Ne parleremo nelle prossime settimane, avremo anche una puntata interamente dedicata al trading algoritmico e all'high frequency trading, un modo con il quale le macchine progressivamente si stanno sostituendo agli umani negli acquisti e nelle vendite di borsa, perché hanno un vantaggio competitivo pazzesco che è soprattutto il tempo. Possono effettuare centinaia di acquisti in un solo secondo. Eppure, in ogni recessione da 200 anni a questa parte, in ogni cambiamento del mondo, avanzamento della tecnologia, che avesse un impatto profondo e duraturo sull'occupazione, è sempre saltato fuori qualcuno che diceva una frase tipo questa. Ehi, è tutta colpa delle macchine. Sono loro che ci stanno portando via il lavoro. Però forse qualcosa sta cambiando. Se considerate per esempio che ci sono colossi dell'informazione come la Associated Press, la più importante agenzia di stampa americana, e Forbes, così facciamo così, parlo anche del mio lavoro, che hanno affidato a delle macchine la scrittura di determinati servizi, di determinati pezzi. I pezzi di sport, per esempio, che sono piuttosto semplici come impostazione e consistono in una raccolta di dati e nell'utilizzo di un linguaggio naturale, oppure i pezzi di previsione sull'andamento finanziario di alcune società o i risultati di alcune società vengono scritti da macchine. Ci sono delle società a cui viene affidato questo lavoro. Quindi forse effettivamente qualcosa è cambiato. Che cosa sia cambiato l'abbiamo chiesto ancora a Nicholas Carr. I think in one way this marks a continuation of the history of machinery. In un certo senso, tutto questo rappresenta la prosecuzione della storia dei macchinari. Fin dall'ascesa del capitalismo, negli ultimi 200 anni, il capitalismo ha sempre cercato strade per rimpiazzare gli uomini col capitale o coi macchinari. In un certo senso il computer è una prosecuzione di tutto questo, ma ci sono delle differenze. Ora i computer possono essere programmati per fare molti più tipi di lavori di quanto non fosse possibile in passato, nello specifico quando i macchinari erano essenzialmente meccanici. Con i computer puoi automatizzare non solo le attività manuali con i robot, ma anche le attività intellettuali. Il software sta assumendo compiti analitici e di giudizio. Nella medicina, nel sistema legale. L'automazione andrà a riguardare molte più persone in molti modi differenti. Se anche l'automazione non ti porterà via il lavoro, te lo cambierà. Even if it doesn't take away your job, automation is going to change your job. E c'è un punto che Nicola Scar non ha toccato, ma che tocchiamo noi, andremo a toccare anche nelle prossime settimane, quando poi sentiremo anche persone un po' meno scettiche, no, sull'impatto che ha la tecnologia sulla nostra vita e sul nostro lavoro. E il punto che non ha toccato è la questione dell'accelerazione della tecnologia, di quanto sta andando veloce, di quanto le capacità di calcolo dei computer siano cresciute e sia sempre più facile dargli istruzioni sempre più complesse, e proprio per questo ma sono in grado, per una serie di mansioni, di sostituirsi agli esseri umani. Qualcuno ha coniato il termine, c'è un interessante paper, un interessante studio di un ricercatore dell'università di Stanford che si intitola Algocracy, che dà proprio la misura di quello che sta succedendo e dimostra che è stata proprio la tecnologia a far perdere molti posti di lavoro nel middle management, che pensavamo non potesse essere toccato da tutto questo. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi proseguiamo parlando di un movimento di 200 anni fa, i luddisti. Abbiamo chiesto anche a Nicola Scar se non si sentisse un neoluddista o se qualcuno non avesse accusato di essere un neoluddista. L'era dei robot. Eccoci di nuovo, c'è una vicenda che è diventata il simbolo dell'avversione alla tecnologia, alla sostituzione degli uomini con le macchine. 200 anni fa, all'atto della rivoluzione industriale in Gran Bretagna, si formò un movimento noto come luddista, da Ned Ludd, un mitico personaggio, non si sa se realmente esistito, che nel 1779 avrebbe spaccato a martellate un paio di telai meccanici che a quell'epoca iniziavano ad essere introdotti. Simbolo della versione della tecnologia e a come la tecnologia cambia il lavoro e le nostre vite. Una risposta primitiva, ma che secondo Carr non è completamente priva di senso. Gli chiediamo se si senta un neoluddista o se qualcuno l'abbia accusato di esserlo. I've been accused of that and all sorts of other things. Sono stato accusato di questo e anche di altre cose. Oggi tendiamo a guardare ai luddisti come a una caricatura rispetto a ciò che veramente erano. E nonostante io pensi che andare fuori e distruggere una macchina non risolva davvero nulla, penso che ci sia qualcosa di positivo da imparare dal luddismo, ossia che dobbiamo guardare alla tecnologia con un occhio scettico, fare domande serie. Questa tecnologia migliorerà le nostre vite o le peggiorerà? Ci darà un lavoro migliore o ce lo porterà via? Credo che ci dovremmo porre le stesse domande sulla tecnologia che si ponevano i luddisti 200 anni fa. Così non ho paura di essere chiamato un neoluddista, perché la storia dimostra che tutto questo ha un grande effetto sul modo in cui viviamo. Computer, situazione. Sistemi meccanici? Invariati. Temperatura del reattore? Invariata. Passaggeri? Invariati. Rigeneratore cibo a buffet? Invariato. pH della jacuzzi? Invariato. Quello che avete sentito è un passaggio di Wall-E, è un film della Disney bellissimo, per grandi e per bambini. Se lo avete perso, vedetevelo, affittatelo, comprate il DVD, fate insomma quello che volete. La Terra è invasa dai rifiuti e su una Terra invasa dai rifiuti resta ormai un solo robot ad occuparsi di tutto, un piccolo robottino, è l'ultimo rimasto di quelli che erano stati messi là. Si muove sui cingoli, ha l'obiettivo di compattare in blocchi cubici la spazzatura. Vi risparmio il racconto, vi risparmio soprattutto lo spoiler, perché ve lo dovete vedere e ve l'ho detto, ma il fatto è che l'umanità non è più sulla Terra, è in grandi navi che viaggiano nello spazio. Quella che avete sentito era la voce del capitano, dove tutto è automatizzato, compreso il trasporto su poltrone che si muovono dentro questo enorme mezzo di trasporto da crociera, e sono diventati tutti enormemente grassi, con difficoltà a pensare, ad avere rapporti umani, a fare anche cose semplici. Sembra che il timore di Nicholas Carr sia sostanzialmente questo. Ma ecco un altro punto centrale sul quale vorrei che ci concentrassimo e sul quale torneremo spesso nel corso di quest'estate. In questi sabati mattina sentiremo anche degli esperti di intelligenza artificiale, chi studia intelligenza artificiale da anni. Il punto è quello di strutturare un nuovo modo di pensare, una sorta di nuova etica. Penso di sì. Penso che è qualcosa a cui ancora non abbiamo pensato. Perché siamo arrivati a un punto nel quale stiamo facendo robot in grado di essere autonomi nel mondo reale. Le auto che vanno in giro da sole, soldati robot autonomi, droni che autonomamente possono andare in guerra. Ed è inevitabile che gli stessi robot si trovino di fronte a una serie di sfide etiche nel momento in cui devono fare delle scelte, che possono essere anche di vita o di morte. Chi è chiamato a decidere? Chi è chiamato a programmare la moralità di un computer? È una domanda veramente grande, se lasciamo i robot espandersi nel mondo. Ancora, è qualcosa a cui non abbiamo pensato e che dovremmo fare. E come già vi stavo dicendo, non è il solo che lo pensa. Dedicheremo tra l'altro una puntata espressamente ai robot autonomi da combattimento e a tutti i problemi che questi robot autonomi da combattimento possono generare proprio in questi termini. Insomma, un robot autonomo che decide di uccidere, che decide qual è il bersaglio. Ma ci sono questioni più sottili e, se volete, anche più vicine. Nel momento nel quale avremo delle macchine autonome che girano per le nostre strade, nel momento nel quale la macchina dovrà scegliere se investire una persona o far morire noi che siamo a bordo, e magari questa persona è un bambino, che cosa deve fare? Cosa deve scegliere il robot? Capite che ci vuole evidentemente la struttura di una nuova etica. E lo stesso discorso vale forse un po' più delicatamente, un po' più sottilmente, anche per gli algoritmi che comandano la nostra vita in rete, la nostra vita su internet. Anche a questo dedicheremo una puntata specifica. Il momento nel quale Facebook sceglie qual è la cosa da farci vedere, per esempio. O il momento nel quale, come si diceva, Google sceglie qual è la ricerca, che cosa stiamo cercando noi in quel momento. Si diceva, gli algoritmi, sostanzialmente istruzioni che vengono date ad un computer perché faccia un determinato compito, sono il sangue dell'automazione. E ci sono quelli che vediamo fisicamente, pensate ad una macchina appunto all'interno di una fabbrica, o molto semplici come un correttore ortografico, e altri complessi invisibili ai quali non prestiamo attenzione ma che entrano quotidianamente nelle nostre vite. L'algoritmo di Google, quello di Facebook o anche quello di altri motori di ricerca rappresentano esattamente questo. Carr ce lo spiega perfettamente. Penso che in molti casi lo sia, e la ragione è che non siamo a conoscenza di come vengono prese le decisioni. Se guardi una fabbrica nella quale lavorano le macchine, puoi capire o immaginarti come lavorano. Con gli algoritmi di trading, con gli algoritmi dei social network, con l'algoritmo di Google. Dipendiamo da loro, ma non sappiamo come lavorano, perché sono invisibili. Facebook determina quali notizie mostrarti nel tuo newsfeed, ma non sai come prende la decisione e cosa esclude. Quando fai una ricerca su Google, dai per assodato che ti arrivino le informazioni migliori, ma non sai come lavora l'algoritmo e non sai cosa ti mostra e cosa non ti mostra. Stiamo diventando dipendenti da questi sistemi, che per noi sono invisibili e che sono stati costruiti da aziende il cui scopo è fare soldi e i cui interessi non è detto che coincidano con i nostri. Che poi sia chiaro, per come la vedo io personalmente, non c'è nulla di male a voler fare i soldi, anzi, per carità di Dio. Il punto importante è che forse noi dobbiamo mettere un po' più di attenzione in tutto quello che facciamo e, appunto, semplicemente notare alcune cose, esercitare un po' più di scetticismo, magari quando usiamo un motore di ricerca provarne altri due o tre per vedere come girano. Però alla fine, secondo Nicholas Carr, delle macchine non dobbiamo avere paura. Non penso che dovremmo temerle, ma penso che dovremmo essere critici. Ci dovremmo, come dicevo prima, porre domande serie. Sono state disegnate con in testa il nostro interesse o nell'interesse di chi le ha disegnate? Tutte queste macchine, questi robot, questi computer, sono stati disegnati da esseri umani. Possiamo disegnarle per aiutarci, per migliorare le nostre vite, oppure prendere un'altra strada. Penso che dovremmo pensare in maniera critica e più profondamente a come la tecnologia ci sta influenzando. About how the technology is influencing us. Abbiamo sentito in gran parte di questa puntata l'intervista a Nicholas Carr, che è un giornalista americano. Il libro del quale abbiamo parlato è La gabbia di vetro, prigionieri dell'automazione, edito da Raffaello Cortina. È uno dei libri di questo grande dibattito che si sta svolgendo. Ce ne sono molti altri con molte diverse opinioni, con un entusiasmo tecnologico maggiore, e ascolteremo anche gli autori di questi libri nel corso di queste settimane. Un piccolo spazio lo vorrei dedicare però alle email che mi avete scritto e che ci avete scritto dopo questa prima puntata. Vi ricordo, l'email è eradeirobot@radio24.it, e poi riporto sempre un punto di quello che mi avete scritto anche sul blog. Voglio ringraziare Andrea, che fa i complimenti ma dice che il limite del mezzo radiofonico è non poter far vedere le macchine in azione. Lo so, purtroppo su questo veramente non ci posso fare niente, però se fate un paio di ricerche di YouTube, su YouTube, penso che possa bastare. Mi avessero dato una TV, vi avrei accontentato. Alessandro Ranellucci fa parte della comunità dei cosiddetti makers, e mi ricorda che c'è una fitta comunità di persone che lavora fuori dalla robotica ufficiale, quindi non nei centri di ricerca, ma magari con Arduino si costruisce dei robot e li programma per svolgere dei compiti. Tutto questo è molto interessante, anche questo è un pezzo del futuro della robotica e forse non stiamo considerando abbastanza. Mettiamoci un filo di attenzione. Cristina infine mi ricorda il tema dell'education. Ci sono dei video che mostrano come i robot si rapportano con i bambini, anche per insegnargli qualcosa. È un tema al quale sono sensibilissimo e proverò a farci una puntata, perché ho tre figli e questo evidentemente ha un impatto. Si chiude qua questa puntata dell'Era dei Robot. Ci sentiamo sabato prossimo alle 8:30. Scaricate il podcast e, se avete gradito, raccomandate la trasmissione ad altri esseri umani. Ho analizzato i dati e so già se c'è qualcosa che non va, ma mi manca il vostro punto di vista. Scrivetemi. Da Simone Spezia al microfono e Gianmarco Ferronato in regia, una buona giornata.